Mari. Ehi, no, mi trovi. Sì, uno, chiatta, bubu. Che stavo a vedere robe davvero, tu è battito. E fa cosa? Se non sta subiando nessuno. Ehi, rimani, non vedo tutta la lì, se ruvura. Ah, sei mariti. Oh, sono rientrato da Olbia, ne sono rientrato a minuti, all'otto e mezzo. Addirittura. Allora sei stato dalla pazza Giulia. Certo, che pazza Giulia, Pagliarucci, chi non me li giria più, chi non me li giria più io, boh. Pagliani, catta, non so, gugosa. In tutta la diffura. Ma. Ehi, vabbè, quando c'è da fare bisogna a farlo, Poi l'apparecchio, quando è possibile si entra, quando non pazienza, ma prima è dovere. Faccio che dovere, ragazzo. Bubu, certo. Mi bello un treno, arriva a Chirivani, ve l'altro 20 minuti di ritardo. Perché dovevi? Non stiamo capito, no? Dovevi perché? A Olbia! Sono andato a pigliarmi il figliolo, ma a pigliare da voi la macchina a noleggio. Boh, adesso è tutto un casino. Ah, ecco. Sei andato in treno. Per forza dovevo andare in treno. Poi da lì dovevo prendere la macchina a noleggio. Adesso stesso ho avuto un casino, è successo. La macchina che da chi va via la patente è caduta. A me non me l'hanno data da chi va via caduta è un burro. Non me ne sono capizzato, me l'ha caduta di una ghida. Bisogna controllare. Però già l'hai rinnovata adesso. Ieri sera stesso. Come l'ha rinnovata mia figlia, ma ne butti in mezzo e me l'hanno rinnovata anche a me, infatti sto circolando con il Fulvio e a fine settimana ce la dovrei avere. Ma a voi siamo durati ad andare con la macchina mia a Dorra Olbia, anzi è giunto mio cognato a pigliarsi a tutti e due e siamo varati con la macchina mia, siamo varati. A voi oggi ho fatto rinnovato la patente. A voi ci ho parlato da Urba, va a pigliare l'altra macchina a noleggio, va a migliore. Ma tutto un casino. Insomma, ogni tanto si siede a chi sta, qui troppo là. Sì, cazzo, vabbè da un poco. Da l'otto e vinti che ci ho combattuto il duro treno e ci ho condurrato che erano in otto e mezzo a casa, a rimanere a sera. Ho sentito che il treno in occhi sono così, non si che adesso andare a Cagliari. Ma mi si di arrivare a più corsa, invece di mare che è sempre lunga, è sempre lungo il percorso, cazzo, dura troppo. No. Qua a coso dalle 8:20 fino a arrivare a Chilivani va appunto alle 9 ci ha messo un po' di mezz'ora quasi, va appunto. Ci ha messo poco arrivare a Chilivani. Tu treno di Cagliari che arrivi che deve andare a Olbia, va appunto un bel. Chi ce l'ho fatto? Ehi, oia! Ma che Sassari o Cagliari è troppo lenta, perché mi sono troppo ben male, capito? Sì, cata, per essere 20 minuti di ritardo non lo so io. Infatti, virano i burizzotti, i chibi, cosa? Dico, caspita, ma non si può sempre che essere, deve essere sempre di ritardo. Questo qua in genere è quasi sempre puntuale, oggi è di ritardo. Ha detto, guardi, non è la prima volta che lo prendo, ogni volta è sempre di ritardo. Ho capito se è pazzetto. È solo mai me in ritardo, invece di arrivare a Ridesi, a Olbia, sono arrivato che erano in onde sbasciati. All'ondese e mezzo ero a coso, all'aeroporto di Olbia. Stop. dopo, ah, quella che in Inghilterra è venuta. Infatti, è venuta per 10 giorni, ma tutta la diffura era. Posso immaginare, non si era bizzata che aveva la patente caduta. No, io non me ne sono gabizzato che ce l'avevo scaduta io, lei già lo sapeva che ce l'aveva scaduta, infatti la doveva rinnovare qua a Sassari, la doveva rinnovare. Ma è sua, può guidare? Sì, con quella italiana sì che può guidare su. Può guidare sì, dopo là deve aspettare, non so, un mese, 2 mesi e se la deve cambiare. Se la cambia con quella europea. Ah, ma si è abituato a cambiare la sinistra pure, no? Già si abitua, già è facile. Una volta che si abitua ad andare alla destra può andare in tutti i posti dove vuole. Facile, c'è bisogno di voi, perlomeno. Bisogna stare molto attenti, specialmente i primi giorni. Infatti, i primi giorni già piano piano già se lo si mette a posto lì. Certo, lei si è pigliato, no, che si è pigliato la macchina a noleggio. Si va, telecamera da Nazio, telecamera da Rido. Addirittura. Ci ha preso un tipo fuori strada, una macchinetta tipo fuori strada, che è bellissima. E si vede, quando metti la retromarcia si attacca il coso, la telecamera dietro. Come metti la prima gibonisa di denanzi? Quelle moderne adesso, infatti, c'hanno le telecamere, infatti. Almeno per chi se c'è qualcuno, va. Infatti, almeno registra tutto, se c'è qualche cosa, registra tutto. Penso di sì, sono fatti apposta per quello. È andato tutto un coso. Insomma, si è fatto una bella massiggiata, giornata intera ad arrivare, così è. Puglia, di tragedia, se no. A voi io te me lo trovo in piedi, non riesci a tenere luce a bici. Ma finita l'anno la superstrada Sassari-Umbria? Ci sono solo due pezzi finiti. Quello che prende da coso prende dalla 131, che c'è il pezzo da lì, dalla 131 sino a metà, sino a prima di arrivare a coso, al bivio di Ozieri, anzi al bivio di Ozieri mi pare, da lì, poi da lì parte tutta la strada vecchia. Mi pare che sino a Uschiri, mi pare che è fatto, sino al pezzo di Uschiri. Da lì è tutta la strada vecchia. E poi c'è un pezzo grande, l'altro pezzo è prima di arrivare a coso, che devi andare parte da questo pezzo e tutta strada nuova. Però tutta una metà è tutta vecchia. Un pezzo hanno fatto che hanno fatto un pezzo nuovo, anivato, che l'ultima volta che sono andato non c'era quel pezzo lì. E staranno ancora lavorando, no? Deve essere che devono fare un ponte, devono fare, allora hanno fatto una deviazione, hanno fatto. E da Ciappi in Farada, da Ciappi, tutto guivi. Io pensavo fosse già finita, capito? E invece ancora non è completa. Bastare pochi chilometri là. Una quarantina di chilometri già, Viccia. Da fare. E allora? Già si vede dove stanno facendo e tutto quanto, ma venivo un bel, venivo a... Ma sarà Pakistan a finirla. Secondo me non ci faccio niente, ma da molto, un bel danno so. Se ci vado mi perdo. No, già è tutto facilissimo. Sono i pezzi che c'è la strada vecchia, e ti congiungi con la strada nuova a quattro corsie. No. E hanno fatto un bel lavoro lì, a Campea, Campuemera, no, come chiamo, si chiama, un po' controllato lì. Hanno fatto una bella circonvallazione lì, cazzo, ecco perché c'erano anni lavorando, cazzo. Si vede che hanno fatto una bella, c'è una rotatoia, hanno fatto un bel lavoro lì. Dalla 131 puoi innestarti direttamente per la strada Perugia, poi innestarti alla strada nuova. Fai una quarantina di chilometri in strada nuova e poi ti trovi 40-50 chilometri e poi ti trovi la strada vecchia. Ne vai a 640 e da Boida ci appitorna con la strada nuova che si collega per andare a Olbia. Arrivi a Olbia con la strada nuova. E lì c'è all'ingresso per andare all'aeroporto, già mi ricordo lì era quasi tutta finita la strada, e per cui da... e hanno fatto un sacco di circolazione anche per andare a Coso, a come si chiama, al porto di allora me la metto più, l'altro porto che c'era dove attraccava sempre lo Stato. Golfo Aranci, c'è la deviazione per Golfo Aranci. Esatto, infatti. Io avevo fatto un cavalcavia, così che non ci passa più sui binari, sono i cavalcavie ed è libera quella strada. Già mi ricordo perché l'ho fatto una volta. Io ieri lì sono arrivato in treno a Olbia e poi da lì sono andato a prendermi Udra, ma ci avevo pigliato il biglietto. Ma giubilato l'Udra, ma giubilato mi ha portato direttamente all'aeroporto, mi ha portato. Ah, è a Cestra allora, beh, allora se c'è la coincidenza va bene. Prima tutto diverso, quando passavo io là, tutte le strade vecchie, strette, cazzo, che certe volte, cazzo, toccava passare per andare lì a quel porto, trovavi il passaggio a livello chiuso, stavo mezz'ora chiuso, cazzo, prima di passare il treno. No, adesso si chiude automaticamente, prima di passare il treno, si chiude automaticamente quando il treno è vicino. Si chiude e poi si riapre automaticamente quando è passato. Non lo chiude più, diciamo, che vede cosa, è automatico e quando sta prima di passare si chiude, un secondo prima si chiude. Ma già è tutto. E poi il biglietto di Udren che vi costa 1 euro, gusta. E non che 1,30 euro, che dà 1 euro. Magari perché il percorso sarà più corto. E poi ce ne sono due tra, uno grande e uno piccolino che va all'aeroporto. Senz'altro hanno fatto strade nuove adesso lì, è un casino. Rimodernando. Oddio che è diventato, si è allungato parecchio Olbia. Io sono un mezz'anno che lo faccio, io saranno, non dico poco, almeno 20 anni. Vabbè. No, infatti è un sacco lunga lì la strada. Cata. È un sacco lunga di... E poi sta ampliando, ancora di più si sta ampliando. Ma se no non vi so villetti. Poi... ormai ci stai andando ogni tanto, per cui sei già pratico lì, là. Si può dire, vi so quasi ogni 6 mesi vi so candendo in TV, si può dire. E la mamma non mi fa coso. E ormai so, già, mi sto già ambientando a tutto canto. E poi magari il traffico è aumentato, da 30 anni fa o 20 anni fa è aumentato senz'altro anche il traffico, capito? E per cui è tutto diverso oggi. Guarda, se c'era stata finita tutta quanta, lì non ci metti un'ora ad arrivare, ma ci metti molto di meno, ci metti molto di meno ad arrivare lì. E quando sarà finita tutta quanta, magari allora sarà più breve, anche più tranquillo uno, vai, perché prima e oia ha ciappato in sciazzata verente, gatta mia, perché quei mezzi pensanti, gatta, mamma mia, per carità, gatta. E quella salita per andare a per Monti, capito? E lì, quella lì era brutta, ecco. No, adesso c'è ancora quella salita lì, ma è tutta rifatta a nuovo, è la strada, è tutta rifatta a nuovo. Dal rifornitore, te lo dico io che è un rifornitore prima di Saccaggia. Da lì, da che c'è la rotatoria, da lì sino ad arrivare alla strada nuova è tutta rifatta a nuovo, dall'asfalto. Ok. Posso immaginare, va. Ma che dici, non c'è anche a palla, così tanto per fare un giretto, capire come te questa cosa, conviene, dai. Però spera che si rinfresca un po', a vedere un po' cosa l'ho fatto, così per curiosità a me. Ah, guarda, ho fatto una passeggiata, basta andare, arrivi a Olbia e vai direttamente sulla strada lì, invece andare all'aeroporto, vai avanti e te ne vai a Ocean. E fai prima, ho fatto una passeggiata. Dice che lì vicino all'aeroporto hanno fatto un supermercato grande, soltanto di quei cappadori che dice c'è dall'A alla Z, macro posti grandi, capito? Lo stavano dicendo domenica. Cioè come arrivi, vedi così, vedi? Globo e altri. Di grandi negozi si vedono sulla strada e ti portano direttamente lì, ti portano e poi vai avanti e trovi a Ocean a Ciappi e poi trovi altri capannoni con altri negozi più avanti e venne di cosa da vedere in chivi più manni di nonchi. Me lo stavo dicendo e questo dice più avanti dell'aeroporto sono più avanti il bivio per l'aeroporto, invece riprende il bivio per l'aeroporto, vai sempre dritto e ti trovi tutti quanti questi capannoni, già si vedono tutte le entrate e poi trovi la rotatoia, vai appena avanti con la rotatoia e ti trovi tutti gli altri negozi, che capannoni grandi di negozi e poi vai appena più avanti e ti trovi a Ocean, ti trovi. Sei grande di un me, dai Urbia, si è allungato veramente e poi perché in estate è più trafficata, mi si che puoi immaginare. Io passavo davanti all'aeroporto, andavo a Nuoro da lì, capito? La strada adesso che c'è, passi vicino all'aeroporto, giri, fai una rotatoia e ti metti nella strada nuova, ti metti. La strada nuova fai una specie di inversione a girare e ti ritrovi sulla strada per tornare a Sassari, nella strada nuova. È bello a vederlo, almeno per vedere cosa hanno fatto, dai, così tanto per curiosità, capito? Chissà qualche volta che ci vada. No, da solo ci vado. Lì mi ci vorrebbe un esperto che conosca Olbia, lasciare la macchina un po' posteggiata in un punto e andare a piedi, tanto è tutto vicino. Fai dezimetri e ti acciappi un supermercato, fai altri dezimetri e ti ne acciappi un altro. Saranno tutti lì, quella zona là, così che non sarà difficile, no? Dai, bene. Tu ormai la conosci abbastanza bene, tranquillo, ogni tanto fa un viaggetto e va bene così, dai. Sì, già non credo. Penso che ha già fatto le mani, ui, mamma mia, ma non ho messo di farlo più, no. Ci ho fatto una o due volte, fatto la vecchia per andare a Olbia, e mancavo sempre lì, capito? Da Olbia, sia per Livorno sia per cosa, per Isola Bianca, Isola Bianca, oppure la Golfarance. Ehi, devo quando partivo da Sassari devo imbarcare un punto e l'altro, capito? Però prima era facile imbarcare perché andavi direttamente in posto, lo trovavi, e mentre adesso tocca prenotare, sennò non li trovi. Lì devi metterti il coso per trovare. Oh, vabbè, che il porto è dietro la stazione, quindi devi mettere nel coso e girare nella rotatoia e fare un'inversione. Girando nella rotatoia devi scendere per andare al porto. Come arrivi c'è una rotatoia e ti porta a metterti nell'altra parte per andare al porto. Ma per andare al porto i binari non li trovi più adesso, hanno fatto il cavacca via, se non sbaglio, no? No, non lo so, adesso c'è questa rotatoia, come arrivi? Che arrivi lì, c'è la rotatoia, giri, trovi una discesa per andare al porto, trovi. Poi non lo so com'è, perché io non ci sono neanche andato io lì. Ah, vai già sulla Bianca, sei andato là? No, adesso no, sono da parecchio che non ci vado più, però andando da lì, arrivando alla stazione, ho visto che c'è il passaggio, ho dovuto passare io a piedi, il passaggio a livello, per prendermi, salire su, entrare dentro a un bar, pigliare un biglietto e andare alla prima fermata del tram. E ho visto da lontano, ho visto il porto, ho visto. È dietro la stazione il porto. Perché prima all'ingresso c'era il porto per Livorno, io marcavo per Livorno, marcavo lì all'ingresso, e poi quando lo trovavo a posto lì andavo a Isola Bianca, capito? Ma lì a Isola Bianca lo trovavo facilmente perché c'era uno che faceva i biglietti, e per cui un amico del mio principale, e allora facilmente riuscivo a imbarcare tutte le volte che andavo, magari rimanevo lì in attesa, però mi facevano imbarcare. No, ma adesso è tutto facilissimo, è come arrivi sulla strada, come arrivi e prendi questa rotatoia, giri, scendi e ti porta direttamente al porto, ti porta dove vuoi andare. Questa tutta la circolazione che hanno invato, bisogna che ci provi anch'io qualche giorno. Me la stavo dicendo, mi sembra che la stavo terminando ancora quando passavo io, che dal porto direttamente non passavi più vicino a Cosio, al cimitero, non passavi più. E c'era la strada, stavano facendo la strada dritta, infatti c'erano i ponti che stavano facendo, che andava a finire direttamente quasi a fianco alla coda dell'aeroporto. Non lo so io so che quando sono arrivato ieri lì ho fatto la rotatoia e mi sono messo e ho visto l'entrata per andare al porto, ho visto, poi mi sono messo in un'altra corsia, ho preso l'altra corsia e sono sceso direttamente per andare all'aeroporto, però perché dovevamo prendere la macchina a noleggio, perché questo ce l'aveva fuori. E da lì ho visto tutto, ho visto da dove. Tu sarai uscito da lì, sarai andato magari c'era vicino quelli dove ha preso la macchina a noleggio, no? No, perché rimane fuori dall'aeroporto, rimane. Quindi venendo ci siamo trovati direttamente che dovevamo entrare da questo qua, dovevamo entrare, infatti abbiamo costeggiato tutto quanto. E in lontananza si vedeva la rotatoia anche dove era. Abbiamo preso questo coso qua, E poi da lì siamo usciti fuori e ho preso quest'altra rotatoria e ci siamo messi sulla strada per tornare a casa. Vabbè. E bisogna conoscere le strade anche, capito? Perché se uno magari per la prima volta magari fare come hanno fatto adesso con questi nuovi rotatoio, magari non è che sia difficile, però un po' di difficoltà c'è. No, con le rotatoie no, perché come fai la seconda rotatoia ti trovi che devi andare o dritto per andare da Oscia o giri e ti trovi il bivio per andare al porto, poi se vai per più avanti ti trovi il bivio per andare all'aeroporto, è tutto lì, è tutto un giro che fai e ti trovi tutte le entrate. E ormai sei pratico, tu va? Ah beh, vuol dire che se ci riesco qualche volta ci andrò a vedere un po', però sempre in compagnia che da solo no. Non è più come prima, no? Però ancora già posso camminare tranquillo, dai. E poi se c'è il telefono ti metti Google Map e te lo segna direttamente, metti la destinazione dove vuoi andare e ti porta direttamente il coso, ti porta Google Map, ti porta direttamente. Anche col tonto, basta mettere il tonto e senz'altro, faccio lì, già saranno aggiornate le strade, per cui si dovrebbe trovare facilmente, dai. Io uso, molte volte uso il telefono, se non so dove è, me lo segno nel telefono, mi porta direttamente dritto lì, mi porta, segnato nel telefono. Io ne ho due di così nel telefono. Me lo metto nel telefono, mi porta direttamente lui, te lo segna, ti porta direttamente lui dove è. Cioè è comodo perché almeno sei più tranquillo e lo stai chiedendo, hai capito? Perché prima io quando giravo tutta l'Italia con quel camion, cazzo, mi puoi immaginare, e certe volte magari sbagliavo, allora me ne scendevo e chiedevo o ritornavo indietro, però domanda prendevi tempo anche, capito? Però riuscivo a arrivare dove volevo io, capito? Prima era tutto un casino, adesso invece è molto più facile arrivarci. Basta che se c'è un telefono aggiornato e tutto quanto, riesci a trovartelo subito, riesci a trovartelo, segni, te lo segna e ti porta direttamente lui il telefono. Infatti, ormai anche i mesi sono già attrezzati, per cui è facile, facilissimo a trovare il posto suo, andare dove vuoi andare. Va bene, vediamo un po' se è rientrato Bacchiglio, attento c'è il Bacchiglio, stamattina ho trovato la moglie, c'è Bacchiglio, e dice, non lo sa, ormai ha volato a campagna, così mi ha detto. Infatti, lui è ammonato ormai, se ne rimane lì. Almeno si va, avanti, sta di casa, e cosa fa? Se lui è già abituato a travagliare, così che se rimane a campagna quello lì, forse fa bene, dai. Però non troppo, perché se no ha una certa età, sai com'è. Fatele così, purtroppo, già le cose si sta facendo da tutte le cose che deve farsi, uno svago in campagna. Dai, pianta anche qualcosa, evidentemente, qualche cosa busca, magari anche quello è un guadagno, dai. Infatti, se riesce a mettersi a posto tutte le cose di quello che gli ha distrutto il tempo. Perché oggi la pensione, non basta mai, sto in casa, ce ne voglio sempre subito, così che bisogna racimolare e attirare adoranzi, bisogna a sacrificare fino alla fine. Infatti è così, bisogna lasciare da va. Dopo, attento, signor Bacchisio. Mi sa che non rispondi, no. Se non si ha acceso in macchina. Ma evidentemente non lo sta mettendo. Boh. Io varie volte ho chiamato, chiamo, ma non mi risponde. Cioè, prima, anche la sera così, no, verso le 5:30, chiamava sempre, ma adesso lo sta chiamando più, evidentemente non l'ha, si è suffatto e non l'ha messo più. No, in macchina ce l'ha sempre, ce l'ha in macchina, sì. Oh, boh. Vuol dire troppo d'apparato, è meglio che sia così, dai. Prima sta lavorando, quando c'è di campagna lavora lui, però sul percorso quando rientra si fa sentire qualche volta, dai. Io ieri me lo volevo portare, io ieri sera, cosa, ma non mi ha detto, ma cosa me la venga a fare, tanto non mi intende da andare da Olbia. Beh, secondo me se non ci sentono, magari se non è che c'è qualcuno lì, perché prima sul percorso c'erano parecchie, ce n'era Tula, ce n'era uno prima del Bisio di Tula, dove c'è il ponte del Bisio per andare a Ossieri, e poi ce n'era a Oschiri, ce n'era a Monti, e io prima c'erano parecchi, magari adesso anche loro avranno chiuso. A Ossieri ce n'erano due o tre, ce n'erano, ma mi sembra che siano tutti spariti quelli lì. Sicuramente sì. No, ma io l'altra volta, ma ci sono un sacco di camionisti che trovi andando, tornando. Andando c'era una specie di prima del ponte per andare a Ossieri, insomma un piccolo discesa, non so se lì senz'altro adesso avrà fatto la superstrada, per cui magari non la vede nemmeno. Prima c'era una specie di negozietto, vendeva birra e anche a mangiare, e c'era una signora che non mi ricordo come si chiamava, quella parlava al maracchino, e varie volte ci ho parlato, e anche da Sassari arrivavo lì, capito? E quando facevo il percorso mi accompagnava quando era libera, capito? Ah, questa mi sa che non si sa più se è morta, se è viva. E poi ce n'era un paio a Tula, che si ricorda più, ma io parlo di certo, un mezz'anno e vanto, che si ricorda più dei nominativi, gatta. Però a Tula c'erano un paio, ce n'era anche quelli che facevano compagnia, sia a Berchida, no a Oschiri, no a Berchida, a Oschiri, a Berchida non ce n'era nemmeno uno. Anche lì già c'erano. Andando e tornando già se ne trovano dei camionisti, e cattano già un bel di arimani, di tiri, camioncini, e a buia ci viene macchine, hanno tutto andato. Magari ci avranno anche l'antenna, senz'altro, ma adesso col telefonino apparato l'hanno mollato tutti, capito? Così che fanno tutto quel telefonino, ma qualcuno ce l'ha sempre, qualcuno ce l'ha sempre. Ah, ho visto io molti tiri che ce l'hanno l'antenna, ho visto che ce l'hanno l'antenna, e a me mi pare che ci parlino, bisogna trovare il canale giusto per parlarci. Adesso siamo quasi sulla 20, su 40 canali, mi sembra che siamo 26 o 27, ci sono certi cagliaritani tutti i giorni, però la mattina, la sera no, la mattina li sento io. Infatti, io l'altro giorno ne ho individuato uno sul 25, li avevo trovati, questi due parlando, uno era di fuori, e ci stavo parlando con loro, l'altro era di Cagliari, stavano parlando tutti e due, mi sono buttato in mezzo. Prima c'erano parecchi, mentre adesso, silenzio, i camionisti sono in pochi, capito? Magari ce li hanno, ma l'accendono, quando è necessario, perché magari col telefono non si trovano, che non si abbiano i numeri, eccetera, capito? Ogni tanto la chiacchierano fra di loro, dai. E per cui magari oggi col telefonino non c'è bisogno di avere la... Però, pare che senz'altro ce ne avranno, ma non magari l'accendono ogni tanto, capito? Ehi, uia! Mi ha inteso il signor Bacchisio, mi pare che era Edo. Avanti, signor Bacchisio! Allo! Avanti, signora Lu! Buonasera a tutti, quelli e brutti, poveri e cattivi. Buonasera amici, aspetta, bisogna farsi sentire a... Ma in macchina sì? No, sono giù, adesso vado giù, aspetta, stanno qua. Sì, ok, andavi là. Ti prenda il signor Giomaglia. Aspetta, almeno fammelo salutare prima di salire su. Signor Bacchi. Vai su, vai. Mi raccomando, senza faticare, salendo, piano piano, Remeremo. Caspita, che andemmo, ve andemmo. Così che gli dà ragione. Almeno Luca del Monte si è fatto sentire più, anche quello, vabbè che sta lavorando, insieme all'altro Luca, così che forse non è impegnato, sono stanchi, non entra. Sì, entrano in inverno, entrano di più avanti, ti avremmo a sentire la sera, ma andavi, certo, maggio rinnovato la patente, 100 euro. Canto? 100 euro. 100 euro. Ma dove sei andato? Con il calcio trovato era l'ACI, fatta subito in presa. Ma qua in Sassari? Qua in Sassari, a l'ACI. Ah, l'ACI si è andato in Catta. Andate a grattacielo. Ah, no, io vado sempre lì, a grattacielo vado. La sera. Grazie, fa tutto direttamente, capito? Al secondo piano fa tutto. Anche io ho fatto tutto, ma il fatto che io me ne sono accorto ieri mattina, ieri sera che hanno mani chiamato per confermare per mia figlia, ho chiesto se potevo farlo anche io, mi ha detto di sì, invece con voce in mezzo l'ho fatta subito. Lo credo. Sì. E a me mi scade a febbraio, sì, a febbraio mi scava a me, però ci vado prima che mi scada, capito? Vado a gennaio, così che direttamente me la rinnovo, capito? Allo? Allo, merci, buonasera, signor Bacchisi. Come se la fa? Buonasera, figlio, buonasera anche al signor Pigna di Squalo, lo Squalo di Pigna, come lo vuole chiamare. Avanti. Sì, buonasera, signor Bacchisio. Già te muove? È sicuro che andiamo bene, muy bien, muy bien. Stamattina ho trovato la tua signora, no, lì vicino alla dottoressa, io ero fermo e lì si vede che stavo facendo spesa. E ho detto, è Bacchisio, ebbene non si sa dove, dice ormai ha volato in campagna. Chiaro, sono Bonavento, sono lì, l'unica strada è quella lì. Finché la strada è libera e che si può arrivare siamo tranquilli, così che bisogna andare, così che gli dà ragione. Bisogna andare, Bacchisio, chi si ferma è perduto. Infatti, si ferma è perduto, bisogna sempre andare, tanto. A fare pulizia, capito? Bisogna fare pulizia in questo periodo. Io sto iniziando, iniziando, ragazzi. Io ho varie cose da bruciare, però fino a quando non si può bruciare non mi interessa, non le faccio più permesso, capito? perché andavo, dovevo comprare il foglio, dopo dovevo aspettare che venivano a fare il sopralluogo, infatti ultimamente uno lo conoscevo, ma dice che cosa fa fare, dice, aspetta, quando puoi bruciare senza il permesso è più tranquillo, vieni, vai e bruci. Infatti, no, io ogni mattina ne brucio un po', c'avevo un camion di roba a bruciare, tutte le pomodori c'erano la serra, le pomodori erano fuori, piano piano, un po' ogni mattina, 10 minuti, un quarto d'ora, ogni giorno lo faccio. Quando è poca va bene, ma io ne ho parecchio, io ne ho parecchio, poi quelle adesso devo, tra poco devo tagliarle ancora, e ce n'è da tagliare, così che mi non ci vuole tutta la sera, e quando brucio faccio tutto in una sera, capito? E poi se ce la faccio me la brucio di domani, capito? Adesso parecchie piante troppo alti, così che era di mezzo, faccio legna a bruciare e basta, troppo alti sono, ma chi? Per cui che ci arriva a prendere la frutta, no? Sarà una scala, no? Faccio di mezzo e dopo la brucio, cado cresci e a media edda. Infatti, no, domenica scorsa, o sabato, il limone, c'era una pianta di limone, stava andando al cielo, e chi raccoglieva il limone su? Nessuno. Allora ci hanno fatto la motosega, l'hanno fatto barba e tappeti. Io sotto non ci passavo dove c'erano gli agrumi, no, però ho iniziato all'inizio di agosto, perché fino all'inizio di agosto si può, tutto agosto si può, gli agrumi si possono tagliare, capito? Si possono portare, e ho visto che adesso è tutto libero con molto coltivatore, no? Non c'è bisogno che mi inginocchi per passare sotto, capito? Guarda, prima non riuscivo a passarvi, no, mentre va è tutto libero, sto tranquillo, capito? E io, che limoni ho fatto, sì, li ho spuntati perché c'è un bel rami lunghi e veniva male, anche quelli li ho tagliati, i più lunghi, e l'ho abbassato un pochettino, già ce n'è da fare ancora, però ancora certe piante non si possono toccare, bisogna aspettare. Ok, avanti, signor Tò. Anda bene, voi bruciate, io già guardo. Poi quando ce l'ha fare bisogna farlo tu. Oh, ce l'hai, te lo devi tenere conto, fa da salute un malandato, no? È la morte mia vedere roba brutta, ma è sempre pulito, sempre. Oh, signor Marchisio! Bisogna tenere pulito, se non sbaglio. Bisogna pulire. No, adesso ho visto alla Lidl, cioè, con la motosega telescopica. La terra senza prendermi, vado me la compro, senza prendermi la terra faccio tutto. Io ce l'ho, ma io ce l'ho già parecchi anni quella lì, solo la mia è molto più lunga, invece questa che sta uscendo adesso sono più corte, e quella mia è lunga, pesa, sembra così, ma pesa maledizione, l'avevo presa dalla Bricon di Cittamercato, l'avevo presa, e c'è un coso lungo, mi sembra 4 metri più 5, c'ha tre pezzi da allungare, capito? C'è questa, mi sembra che si allunga per 2,50, mi sembra che allunga, o 3 metri, non mi ricordo, 2 o 3 metri va. No, non lo so, l'ho vista in pubblicità, infatti oggi devo andare, oggi non ho molto tempo, domani se ho tempo ci vado e la compro, perché è comodo, la terra senza scala, senza niente, tagli e fai, e poi questa è la batteria anche. L'ho visto anche ieri sera, dalla Lidl, come cavolo si chiama, Lidl. L'ho visto, no, conviene, ma chi? Conviene, la terra puoi fare tutto quello che vuoi, io ripeto, è troppo lunga, mi pesa, la mia pesa un bel. Mi piacerebbe questa più corta che ho visto adesso, che è più leggera, più maneggevole, capito? La mia, esatta, di là per i bracci, andiamo a dire una palla di braccio perché è pesante, mentre questo invece sono adesso più leggere e più maneggevole, ecco, per cui pure perché è un attrezzo un troppo stoco. Poi c'era un altro attrezzo, come un trambaro, sì. E ti dico che per portare i rami piccoli da terra, così, anche con la scaletta, no. Non so come taglia, ma è un saghetto, ti dico che è elettrico, però, questo è elettrico. L'abbiamo provato con Luca e ti dico che lavora bene, ma bene, bene, bene. Quello è un attrezzo molto utile, me lo sono comprato, ma chi? Anche quello c'ho. Non sei uscito, Bacchì. È un saghetto elettrico, Bacchì. Ti dico che è veramente bene, bene, bene anche quello. Ehi, adesso uscendo sto buco. Sì, adesso stai uscendo. Però lo stavo uscendo. Dove sei assentato? C'è tutto sparpagliato. No, già mi sono assentato un attimino perché è venuta mia figlia e gli ho mandato giù il cane. Che se no non riesce a far nulla. Ok, là. Riprendete. D'accordo, capito, ma che no, io sono attrezzato in campagna, non manca niente. C'ho anche la motosega elettrica, c'ho anche la, come si chiama, quella motore. Ce n'è una nuova a me, l'ho presa da Bricomi di più di 4 anni fa. Ce l'ho in magazzino, nuova, non l'ho usata, l'ho presa e non l'ho usata, ancora c'è il magazzino qua, ce l'ho, si può immaginare, in campagna invece c'ho quella le melite e un'altra elettrica che è un treno dagli Enni, ma chi? L'albericruccia, non c'è come mettere in Italia. Sì, ma quella elettrica è difettosa. Se incalchi, la usi, fai pressione sopra, quella cavo di carrucola che c'è in tempo, si consuma e si è imbottito. Bisogna usarla leggermente. Sì, ce l'ho anch'io quella elettrica, c'è una metalla elettrica. Poi ce ne ho altre tre a scoppio, una grande, una più piccola e una piccolina. No, non si è mai bloccata la mia, si faceva ho tagliato tronchi grossi, Vladimir mi farà un albero di cipresso, ma grosso però è un beassa, gatta, meno male mi farà di un'altra cabina, gatta. Ti dico che è un bel grosso, gatta, vai già attaccata, anzi di quella giornata. Faccio molto un paio d'ori, però già metto a tagliare i drocchi grossi, non ho idea. Olio ci vuole, sempre l'olio a catena è sempre perfetta. E ti dico che bisogna vedere che marca è, che è molto sega, perché ce ne sono vari tipi di questi elettrici. A me me l'hanno presa mio nipote a Cagliari, allora quando c'era la lira, ti dico che è buonissima, ecco. Giovanni, io mi sento direttamente, chiudo perché mi soccia di me vigliura. Ci sentiamo domani, se tutto coincide. Ciao Bacchisio, stammi bene, a domani. Ciao Giovanni, ci sentiamo le prossime. In campagna tutta ce n'è, in abbondanza, voglio lavorare ci vuole. Ci sono due respiratori, uno a 34 cc e uno a 25 cc. Aspetta Tore, salve qui, vi siete accavallati. Ciao Tore, ci sentiamo, dai, buon frullimento, a domani, saluto di casa. Alle prossime, vai Bacchi, saluto. Ehi, ciao Tore, buona serata, saluto in casa, a domani se tutto coincide, stammi bene, ciao. Ok, ciao. Capito Bacchi, io sono attrezzato, poi c'ho per il punto c'ho quella telescopico, cata, tiri lo spago, lo sai come taglia, come spunta i rami, anche più grosso del dito grande, se taglia come niente. Poi c'è anche quell'altra più piccola, che è più piccola, quelli, anche quella, le punte, sono attrezzato, io capisco, no, mi manca niente, mi manca infatti la foglia di lavorare e basta, capito? Però già sta facendo Luca questo lavoro, per cui già sta raggia lui, è forte, già è giovane, per cui può prendere tutto. È quella motosega che sto dicendo io, è elettrica, ma stessa, no. Però sai come taglia che è un bombo, ma da terra, mi dice, caro, non c'è bisogno, da terra, perché c'è lunga parecchio la mia, mentre questi di adesso sono più corti, però la mia è molto lunga e ci vuole delle braccia a mantenerla, capito, Bacchi? Sono pesanti e ci vuole braccia, e ci vuole gente che abbia un po' di forza, certo non puoi mettere la tua età di lavorare un'ora, due ore, se puoi fare 10 minuti, un quarto d'ora, poi boom, metti da una parte. Io la usiamo molto spesso quella, capito? Ma specialmente da dove la fatti, ci sono delle piante con i bracci anche un po' grossetto e le voglio abbassare, per cui usiamo quella lì, capito? E per cui per lati fini usiamo quell'altra elettrico, quello seghetto elettrico, che è una meraviglia, quella già ce la faccio a prendere in mano, e per cui mi faccio portare tutti gli aranci, va benissimo, va molto bene quella lì, è un attrezzo troppo utile, quello è quella motosega che vuoi prendere, prenda tranquillo che è un bombo. Domani mi dedico quello lì, tanto devo andare in quella zona domani, faccio un salto e me la prendo, perché magari poi se mi trattengo non ne trovo, perché fanno la ruba questa roba qui, fanno la ruba. Anche noi ce la famo, sa, va bene, ieri ce la famo e l'abbiamo, l'ho vista, e se l'avrei presa, infatti, ma io li mettono sempre, ma chi, poi se non trovi un posto, se non trovi lì di fronte alla centrale latte, lo puoi trovare lì alla torre, perché ce l'hanno sia da parte sia anche vicino alla centrale latte, capito? E per cui già la trovo, e poi se dovessi mancare le mettono molto frequenti quelle lì, capito? Perché la Blitto, però quella della Blitto non mi piace affatto, quella della Blitto non l'ho vista, non mi soddisfa, è un giocattolo di quelli dei bambini. Anche a me, già l'ho vista, già, anche io l'ho vista lì alla Bricomen, nonno, io ho preso, che marca è la mia, le Melizie ho preso io, sono delle la marca è buona, c'ho anche la motosega, due motoseghe delle Melizie c'ho io, e per cui la marca è buonissima, per cui, no, vai dal Lido, quelle del Lido va benissimo, è della Parque Side, roba spagnola, per cui vanno bene. Sono tedesche, insomma, domani, sono tedesche, vengono dalla Germania. Quelle non lo so, quel tipo non lo so, non l'ho guardata la marca, non ho guardato, quello che ho io è della Melitta, capito? Che l'avevo presa a Bricome di Città Mercato, ma mezz'anno fa, l'ho usata 6 o 7 volte, l'ho usata, e trocchi grossi pure tagliato, e è buono, solo che è pesante, mentre invece queste sono più corte e sono più leggere, capito? Non so se 2 metri o 3 metri lunghe, capito? Per cui sono più leggere quelle lì, la mia è un po' pesante, si dirà a fare i bratti, 3 metri è abbastanza bene, 3 metri, quando sono 2 metri, quando taglia 3 metri, troppo di lusso, anche più basso bisogna tagliarle, perché non si riesce a guardarle per raccogliere la frutta. Perché c'è anche il cespugliatore, che fa da cespugliatore quello lì, a Bricco mi sembra che l'ho visto, fa cespugliatore, motosega è un'altra cosa, mi sembra, quello che ho visto alla Bricco. Quello della Bricco c'hanno 3 pezzi, invece questa della Lido ne ha 2 soli. Sì, è un pezzo solo, infatti è migliore quella lì. Basta metterci olio, zombacchi e cammina, e la catena taglia che un mambo. Guarda, io ripeto, ce l'ho un sacco a Giovanni, ma io la catena ormai affilata, se tu la metti in marcia taglia che è una meraviglia, capito? Si vede che è roba buona, ecco. Ma la catena bisogna sempre affilarla. Ogni po' di taglio bisogna affilarla se vuoi che cammini bene. Io quando faccio un'ora, due ore di taglio, prendo e la filo, c'è la trenza per affilare, la metto lì, due secondi affilata e rimonta, e taglia ancora migliore. Ma ogni volta c'è bisogno di una volta che tagli lo macchi, cazzo, io ripeto, non l'ho affilata mai. Stavo per prendermi quella macchinetta a dire, prendo anche quella macchinetta, l'ho vista anche, guarda, sabato, per affilare anzi lunedì, sì, là, l'ho vista anche lunedì che c'era la fila a catena, però non l'ho mai presa, però è un attrezzo che serve benissimo, capito? E non è così molto, capito? Certo che c'è la catena, però se uno usa una sera, anche se taglia roba grossa, non fa niente, capito? Perché quelle lame sono buone, non sono di plastica, quelle acciaio veramente. Ma le catene, se tagli legna verde durano di più. Se comincia a tagliare legna secca, come comincia a tagliare legno d'olivo del secco, è tranquillo, dopo un'ora, un'ora e mezza, affilala perché sta girando a vuoto. Invece di fare truce le fa segatura. Beh, di questo non lo so, io olive non le ho, ne avevo tre piante, le ho tirate dalle radici, per cui non l'ho tagliato, per cui non l'ho, io ho tagliato i pini, le pere, quelle lì già le ho tagliato, capito? Però roba dura non l'ho tagliato, capito? Quella è legna morbida, e taglia tranquillo, basta che si comincia a tagliare l'olivo, se trovi un pezzo secco. Non che un taglio fai se ti mangia la catena, perché è acciaio quel cavolo di legna. Beh, allora non lo so, ma chi di quello non lo so. Io ripeto, c'ho una motosega Melite di quelle piccole, non so da quant'è, addirittura quella l'ho presa quando abbiamo fatto la cabina a Sesto Pitrivo e Savino, questi sono a me la buon'anima, l'avevamo presa insieme. Un giorno sono sceso, ti ho visto tagliando le ternite con la motosega, mi ha rovinato tutta la catena e più il braccio della cacchia mantiene la catena, tutto guasto, tutto mangiato, ho dovuto ricambiarlo tutto, catena e piatto. Questo cosa si è mangiato anche la lima, se se la mangia, le ternite, non sono macchine usate a tagliare le ternite, a tagliare legno e boh. Lui invece ha tagliato le melite, infatti non ce ne viveva più, l'ha tutta rovinata, poi me la sono caricata io, perché a lui non ce ne viveva più, e per cui me la sono riparata, ho speso un sacco di soldi, ancora ce l'ho, ti puoi immaginare che da quando mi hanno sfasciato, da prima di sfasciarmi la cabina a Sesto Pitrivo, perché l'avevamo presa, tagliavamo il trucciolare da 18 millimetri, perché avevamo fatto la cabina di trucciolare da 18 millimetri, e legni pure, capito? E ancora ce l'ho, che magari è in ritardo a partire, però quando parte non si ferma più. Perché bisogna mettere sempre in moto. Infatti io fermo, che non lo usate, una meta non li uso. L'altro giorno il pesce la metto in moto, va grande, non mi ha voglia, ho detto che è stanca. Andava così, oggi il spogliatore. Io ho preso la Mariani un 34, anzi no, un 44, la Mariani, c'è questo, già è buono, un motore buonissimo. Cazzo, figlio, 400 euro me l'ha fatta pagare, cazzo, con il cespugliatore. Cazzo, e dopo un annetto si mi è sfasciata la pressione. Mi ha cambiato la pressione, prima era silenziosa, aveva fatto un casino, niente, ma che si vede che non mi ha messo le pezze originali, è troppo rumoroso, però sta sempre camminando, è un bambù, al primo colpo parte, poi va dalla Bricoman, c'ha il manubrio come la bicicletta quella lì, è quella ciò, poi va dalla Bricoman la mattina e ti vedo questo cespugliatore giallo, era bello, 158.000 lire. Ma ce l'avevo, però mi sembra che l'ho preso. L'ho preso e ce l'ho ancora. Una volta solo ho pulito il carburatore, mi sa subire un treno. Qua stavi andando a coso a Bricco Centro, mi sembra che quello che era già il Porto Torres che adesso ha chiuso. Come si chiama? Bricco? Bricco Centro, te lo dico. Vado lì, era uno steso, e ti vedo questo cespugliatore grande, bello, grosso, nel 44 di cilindrata era, bello, un alpino, era alpino, bello, bianco, e quanto stai vendendo? Beh, dice a me, è l'ultimo, un'offerta a me, proprio a io, ma un'offerta. Beh, ma l'ho detto, siamo a 160 euro, te lo sto prendendo. Mia amica me l'ha dato veramente, e ce l'ho qua in magazzino, nuovo, ancora dentro la busta. L'ho provato così una volta, e adesso è dentro la scatola senza toccarlo, nuovo. E ne ho tre, si può immaginare. La provvista hai fatto, no? Io ne ho due, uno grande e uno piccolo. Infatti uno è 34 cc, l'altro è 25. Uno è una marca, non me la ricordo, il primo che ho comprato è un Honda, no, un Kawasaki, l'Honda da motovapa, un Kawasaki che ho 16 anni, non ci ho fatto mai un piffer, non ho cambiato mai candela, non ho fatto nulla, metti benzina e nastro e filo. A miscela c'è stata. La miscela bisogna filtrarla bene, sempre, e per cui la miscela sempre, io faccio sempre al 2, per cui mi camminano sempre, capito? Quello che ha preso la Bricco da 158 euro, quella lì si mi era bloccato, voleva partire, atto strano, ma mi ha fatto l'anima. Mi ha detto Luca, aspetta che lo facciamo partire, ci ha buttato appena di miscela nella candela, ha tolto la candela ed è partito, però dopo non riuscivo a partire, allora l'ho portato qua alla Budibuddi, no? L'ho portato, l'ha pulito il carburatore, ma richiede le membrane, so, dice, perché adesso le membrane muore, non ne fanno più, dice, se va il motore, dice, è una carolata, è un bombo. Ho visto che l'ha messo le membrane nuove, per cui è la fora che è un bombo, capito? Così che a me, quando senta a tirare un cannavo, ma poi in marcia e mi fa le braccia, non mi piace, ma sì, va un primo, lo secondo colpo, ma se no non mi piace. Infatti, è così, appena il secondo colpo. Sei andato a riparare da quel ladro, io sei un ladro, non un meccanico, io sei un ladro, Non me lo dire. Tu devi pensare, ci mi ha rotto la cosa la cordicella della messa in moto, no? Del distruttore. Sono andato a lui, ma detto no, dice, non ce l'ho il video che mi ha visto, me lo devo ordinare, dentro della Kawasaki, dice vai da Mariano. Tanto Mariano dice, sì che ce l'ho, ha detto me lo via. Dice la mola, le ha piazzate, se ti ho detto, le ha piazzate lì, dice lo deve provare. Mi ha detto la mola, mi ha lasciato collina nuova, con la mola piazzata. stato un po' di tempo, è stata... Adesso è andato a questo qua, alla VTV, e ho detto, non è che per distretta mi piatta la molla. E così, sì, cioè, mi deve lasciare perché dice ci vuole un po' di tempo a piattarla. E poi l'ho fatto Mariano, ci ha messo un secondo, lei è durante ora. Vabbè, me la lasci, l'ho lasciata. Adesso è tornato alla sera alle 3. Ha detto, questa sì, sì, è pronta. Per piattare solo la molla, 15 euro. Questi cabacchi, aspetta, beh, però meno, ma ha pulito il carburatore, me l'ha pulito bene, ma ha messo le membrane nuove, per dirti, no, e ha pagato 20 euro mi sembra, o 25, non mi ricordo, 20 euro ho pagato, e ancora è tranquillo. Adesso dico un particolare, questi spogliatori che tu hai preso da Mariani, si era bloccato per la pressione, a cos'è devi dire? Allora era in via delle Conci, allora erano Mariani, e c'era questo ragazzo che lavorava lì, a 15 giorni, oggi te lo faccio, ma l'ho fatto, ah, amici, va bene, dopo domani la trovi pronto, andavo e non ha pronto, andavo dopo altri due giorni, insomma, per abiti, due mesi, una cosa del genere, e poi erano uno, cazzo, i due mesi, non ha posto, tagliato in mezzo, da un fatto così, ho detto, beh, insomma, ha chiamato il principale, ho detto, ma ti pare la cosa roba, tizio, mi devi lampare la cosa così, l'ha breato. Poi va con Sammino e dice, qua ci vuole il carburatore nuovo, non parte, così era, cazzo, mi vuoi andare a comprare un carburatore nuovo, cazzo, il carburatore non avvia niente. Ecco, da poi è giunto Edu, il principale proprio, sì, ma cosa meglio Maria, anche lo conosco, tra la famiglia conosco io. Così è così, appena un cacciafitte, poi in marcia, a quale camminende? Hai trovato la persona giusta. Bene, c'è poi la signora che ti ha chiamato, che è pronta la medicina. E chiedo scusa se interrompiamo il QSO, ci la sentiamo domani, saluti in casa, buona cena, buon tutto, a domani Gianmarì. Ok, d'accordo, ma chi? Buona cena, allora ci sentiamo, salutoni in casa e a domani, buon proseguimento, ciao Bacchi, grazie la chiacchierata.